Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono e lo ricordo stasera ospiti di Andromeda. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del disco Sogni, Lacrime e Giorni Bui, come ad esempio quello che abbiamo ascoltato, il titolo? Andromeda. La vostra esperienza in studio di registrazione e quali le idee musicali che hanno poi realizzato e dato vita a questo disco? Ah, un'esperienza molto interessante, anche perché è stata la prima vera esperienza in studio, quindi molto formativa, molto divertente e anche tanto difficile. Quello che volevamo fare in studio era fare della buona musica ricca, soprattutto perché noi nel live siamo molto rabbiosi, a volte anche ruvidi, quindi in studio volevamo fare qualcosa di un po' più curato e ricco, soprattutto nelle sonorità. La prossima canzone per chi ci ascolta? La strada. In studio ancora con gli Andromeda, recensioni, quali le più interessanti e cosa dicono del vostro album? Beh, qualcuna positiva, qualcuna anche un po' più critica, ma l'abbiamo sempre accettata anche perché sono state fatte veramente da qualcuno che ne sa, quindi abbiamo preso le critiche molto in modo costruttivo e abbiamo cercato anche di riportarlo poi nei lavori che stiamo già facendo adesso. diciamo che cercano di classificarci nei vari generi, chi dice dark, chi dice gothic, però insomma siamo noi, siamo gli Andromeda, questo è il nostro sound e ci piace così. Prossima track? Prossima track, mostri. Noi torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con gli Andromeda, voi restate sempre su Radio RCS.